24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Siamo qui, sono le 6:33 minuti, cari ascoltatori, buongiorno e ben ritrovati in questo giovedì, aspetta che prendo il primo quotidiano, 27 giugno, io con le date sono pessimo, eccoci qua. E allora, questo è 24 mattino, c'è Miriam Lucchetti in redazione, c'è il nostro alpino Peter Bescapè, al quale preannuncio una piccola sorpresa, credo in segreteria telefonica, alpino, fai il bravo, alpino in segreteria telefonica. C'è... Sì, sì, non ce la contraffina il premio, Milan, sei proprio un coglione. Ma è possibile che sei un pieno così lavori in radio? E il mondo va così. Vabbè, pazienza. Ce ne faremo una ragione. Maurizio Tortorella, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno, ce ne faremo una ragione tutti del fatto che... Hai dei bislacchi di ascoltatori, obiettivamente. Ma no, sono i più teneri, sono i più teneri. Quelli che mi riversano addosso le cose più tenere che arrivano in segreteria. Saluto anche Alessandro Giglioli, buongiorno Alessandro. Buongiorno, eccoci. Buongiorno, un bel pilo a mattina e la giornata va sempre meglio. Va sempre meglio, sì, sempre così. Allora, qua abbiamo il governo delle larghe intese, Maurizio Tortorella, vice direttore di Panorama, Alessandro Giglioli, caporedattore all'Espresso, e così insomma abbiamo fatto, voilà, mettiamo insieme De Benedetti e Mondadori. oggi è la giornata in cui bisogna capire se Tortorella deve 524 milioni a Giglioli. Sarebbe bello che, come dire, funzionasse così. No, dico, Giglioli non vede l'ora, c'ha già l'Iban pronto per Maurizio Tortorella. No, oggi... Esatto, poi il Fionda gli passo i miei numerini, lui mi passa, così sistemo qualche generazione di Giglioli. Sì, esatto. Tutti in monetine, però non è, Tortorella ha messo tutto da parte, il salvadore. No, monetine, così gliele consegno con 12 tir. Ah, va bene, i tir di Tortorella vanno da Giglioli. Sì, oggi c'è la sentenza, la Cassazione deve confermare se Fininvest deve a De Benedetti 524, no, 560, quanti sono, quanti milioni di euro devi, Tortorella? Sono più di 560, per esempio. 564, sì, credo. Ma non è vero, non gli devo per niente. Vabbè, insomma, questo lo stabilirà la Cassazione. Lo stabilirà la Cassazione. Possiamo aprire il nostro Parlamento? Sì, apriamo il Parlamento e così siamo tutti contenti che anche Nicole Minetti ci offre il caffè. Come sempre. Io non lo voglio il caffè, ecco, della Minetti. Tutti contenti. Tu continui. Se forse hai preso anche tu i suoi favori, rossere col caffè della Minetti. Noi non lo vogliamo dalla Minetti, brutto cretino d'un Milan. Va bene, allora. Allora, io non ci volevo credere ieri quando ho letto, ma in realtà è proprio successo così, che per bloccare l'aumento dell'IVA hanno piazzato delle tasse clamorose. A parte hanno l'acconto di IRPEF, IRES e IRAP, alcuni acconti arrivano al 110%, cioè bisognerà versare anche quello già all'anticipo per l'anno prossimo. E poi aumentano le tasse, la tassa sulla sigaretta elettronica e sul liquido arriva al 58,5% del prezzo di vendita. Ma dico io, non so, Maurizio, iniziamo, ma com'è possibile che gli italiani digeriscano, accettino una cosa del genere? Per bloccare l'aumento di una tassa si mettono altre tasse o comunque si tartassano gli italiani, ma... Detto nei confronti del governo Monti più volte, ma lo diciamo anche nei confronti di questo governo, è un governo che nel suo programma aveva i tagli alla spesa pubblica, ma quella è l'unica parte che è scomparsa equanimemente sempre, ed è una cosa obiettivamente vergognosa, che in questo paese non si riesca a porre mano, come si dice, come dicono quelli che si esprimono forbitamente alla spesa pubblica, è clamoroso. Dei misteri gloriosi italiani. Infatti l'ho letto, no, attenzione, però notizia sul Sole 24 Ore, attenzione, c'è un taglio della spesa pubblica nei prossimi anni pari a 13,5 miliardi di euro. Sì. In Gran Bretagna. Gran Bretagna, vabbè, era un piccolo particolare. Cameron ha deciso un taglio di 11,5 miliardi di sterline, pari a 13,5 miliardi di euro, alla spesa pubblica. alla spesa pubblica. Giglioli, adesso Letta va lì al Consiglio Europeo, magari lo vede anche Cameron, penso, non so, prenda appunti, potrebbe essere una soluzione, non, no? No. Tu dici, non so, io no, non credo che zero. Lui dovrebbe prendere appunti, se si può dire questo del mattino dovrebbe forse portare qualche ideuzza. No, in Italia siamo al settimo trimestre consecutivo di recessione, no? Mentre la borsa ha avuto il 30% d'aumento, cioè siamo in una situazione in cui, ma non solo in Italia, ci si crea un sacco di denaro virtuale e manca il denaro reale. Quindi forse qualche... Non so, le cose che dici tu, Milan, sono sacrosante, però qui siamo a ridipingere per l'ennesima volta, in questo caso con una pittatina anche abbastanza ridicola, un edificio che è marcio nelle fondamenta, cioè sono le fondamenta che non funzionano. Ma per forza, ma se tu per scongiurare l'aumento dell'IVA chiedi che se aumenti l'acconto dell'IRPEF, esatto, siamo un giro di conto di un edificio che è marcio, perché esatto. L'edificio è marcio in sé nel momento in cui si crea soltanto denaro virtuale, in cui c'è una maggiore... Adesso è presto la mattina, non stiamo a citare né Malta né Venezia, però insomma... Siamo di fronte a delle scelte. Quando tu mi dici Letta vai in Europa, andrai in Europa a dire sono stato bravo perché sì. Ho dato dei soldi ai giovani disoccupati stando sì, dentro le sì. vostre regolette. Abbiamo creato 200.000 posti di lavoro. Sono proprio queste regolette che fanno l'edificio marcio. Però. Sì, no, ma infatti abbiamo creato, anche ieri l'ha detto, 200.000 posti di lavoro per i giovani. Vedremo, speriamo. Sulla sigaretta elettronica, sì. Così tanto per... Sì, sì, addosso alla sigaretta elettronica. Troppa teoria. Ecco, lì siamo all'ignoranza più brada, perché lo sanno anche, come dire... i ragazzini di 13 anni che le sigarette elettroniche, non avendo, e io non uso la sigaretta elettronica, sono ahimè un vecchio fumatore, però ho un po' studiato la vicenda, non avendo il catrame, riducono tantissimo le malattie, sulla sanità pubblica. Ma è ovvio. Quindi vai a disincentivare una cosa che migliora sul lungo i conti pubblici, esattamente come vai a disincentivare l'economia, la tassi. E il futuro del paese quando dai dei soldi a chi non ha studiato. Io faccio notare che nel favoloso provvedimento preso ieri c'è un sistema premiativo per chi non ha preso il diploma, no? Sì. Avete letto questa cosa? Sì, è fantastica, no, certo, Maurizio. L'idea di che l'azienda ottiene il premio, lo sgravio, si assume un lavoratore tra i 18 e i 29 anni che non ha che è disoccupato da almeno 6 mesi, però non deve avere il titolo di scuola media superiore o professionale, francamente, cosa significa? A parte quello che credo che siano 10 in tutta Italia. L'elogio, ma a parte l'elogio, ma per carità, cioè, che fossero meno, no? Che fossero di premiati. No, ma per carità, no? bisognerebbe aspetta, giro un attimo, bisognerebbe trovare un sistema nel quale se uno davvero magari non ha studiato perché ha avuto una difficoltà clamorosa, eccetera, ma il concetto, siccome le regole valgono in linea generale, vuol dire tradotto premiamo i somari, quelli che non hanno, no? Quelli che non hanno studiato. Disincentiviamo lo studio, disincentiviamo il miglioramento della società. Sì, certo. E vabbè, d'altronde, questa della partita di giro delle tasse, cioè vi tolgo l'aumento sull'IVA, però dovete pagare di più di IRPEF, credo che sia in una tecnicamente chiamato, in una partita di giro che è aperta in un file al Ministero dell'Economia, caro Maurizio, credo presa per il culo. Credo che sia tecnicamente così, aprono questo file e poi fanno così. È abbastanza triste, però non so, di altre tasse non c'è, però ci sono 200.000 posti di lavoro, questo almeno l'hanno annunciato, eccetera. Allora, però, siccome siamo a fine giugno, si avvicina l'estate, così, cioè, cosa c'è di meglio per mettere di buon umore Maurizio Tortorella per trovare un modo per sparlare di Beppe Grillo? Non credo che ci sia modo migliore per rallegrargli la giornata, no? Stai andando sulla copertina di Panorama. Sto andando, ce l'ho qui la copertina di Panorama, figurarsi. Allora, però siccome si avvicina l'estate, insomma, entriamo un po' anche in clima, possiamo entrare in clima in modo che almeno... Beh, la foto di copertina è bellissima. La foto di copertina è bellissima, sì. C'è un grillo che tiene due pinnette con gli occhiali sopra i riccioli. No, io continuavo a prendere tempo perché volevo che partisse una canzone dell'estate, ma insomma sono 2 minuti qua che non parte la canzone dell'estate. Allora, vacanze a scrocco, questo è il titolo della copertina di Panorama, vacanze a scrocco, cioè avete... scritto che Beppe Grillo, insieme ad altri VIP, e ce ne sono altri che adesso magari elencheremo, ha usufruito anche lui fino al 70% di sconto di vacanze da Valtour, è così? Sì, tra il 2003 e il 2007 più o meno abbiamo fatto un calcolo, sono 17.000 euro di sconto per lui e una decina di persone appartenenti alla sua famiglia, partecipati alla Sardegna e Sestriere una volta come cambio merce, nel senso che lui ha fatto evidentemente qualche spettacolino, ma il resto no, sembrerebbe. L'abbiamo letto nei documenti della Valtour, c'è una richiesta aperta alla procura di Trapani sulla società, e quindi i documenti sono quelli lì. Per carità, come si suol dire in questi casi, non c'è niente di illegale. Niente di illegale. No, no, sono sconti. Cioè, uno ti arriva lì e ti dice: ti porto qui in vacanza, sei Beppe Grillo, sei famoso. Niente né per lui né per gli altri. Sì. Come si dice VIP. Per esempio, Maurizio Crozza, 65. Sì. Oppure Ilari Blasi e Francesco Totti. E dai. C'è una banale logica. È ovvio che in alcuni posti la presenza di un personaggio dello spettacolo, di un personaggio famoso, ha una funzione di marketing. No, ma infatti però, porti prestigio. Però, voglio dire, se per il personaggio famoso questo è tutto sommato comprensibile, per chi si atteggia poi a essere il moralista, il moralizzatore, il... Eccola la zampata di Tortorella. Allora Giglioli, a te da fastidio. Tra l'altro, ecco, così facciamo proprio il governo delle larghe intese editoriali. Fu l'Espresso settimana scorsa a tirare fuori questa vicenda dei VIP in vacanza a Valtour, e Panorama oggi l'ha completata, così abbiamo dato un colpo al cerchio, un colpo alla botte, scontiamo a metà. Adesso gli ma devi solo un vero democristiano. Milan, ma strano, perché la Democrazia Cristiana non la vedo da nessuna parte, no? C'è uno scoop in particolare su Schifani, sono sicuro che anche Panorama l'ha messo, giusto? Sì. No, Schifani effettivamente messo Schifani? Ma no. Schifani che fu il più uno dei più gettonati fra quelli che andarono a scroppio. No, sta venendo fuori delle cose carine da questo successo Valtour. Però Beppe Grillo effettivamente è quello che lavorando all'Espresso non ho ancora letto Panorama, che esce oggi, giusto? Sì, esce oggi. E l'Espresso domani. Corro, a vedere nella mazzetta il vostro... Vedete che pubblicità che vi faccio, dottore. Sì, e detto questo, io sono preoccupato veramente, se posso fare una nota politica, nel senso che il Movimento 5 Stelle fino a 4 mesi fa aveva catalizzato una protesta nei confronti, che è la protesta che, come dire, esprimo anche i tuoi ascoltatori, Milano, che spesso esprimi anche tu, non so cosa hai votato, non mi interessa. Ha votato, io l'ho sempre detto, ho votato alla Camera Beppe Grillo e al Senato il PD. Così Tortorella adesso mi toglie il saluto, forse lo sapeva, forse no, non lo so. Detto questo, adesso con tutto il casino che non mi riferisco tanto a Grillo quanto agli errori che ha fatto il Movimento 5 Stelle e che ha fatto lo stesso Grillo dopo le elezioni, c'è una protesta diffusa in questo paese che non trova una canalizzazione. Questo occhio, ragazzi, che è pericoloso. Io leggevo l'altro giorno che circa 65%. Questa è un po' la Beppe Grillo, però tua. Cioè, ragazzi, noi siamo l'unico argine. Lo è stato, adesso lo è sempre meno perché è in grave crisi, poi vediamo se si riprendono o meno. Quando c'è il 65% delle persone, dei cittadini, che è contro il governo, come dicono i sondaggi, che non approva il governo, e però non c'è un'opposizione nel palazzo che rappresenta questo 75% in cui ci si identifica, è una pentola a pressione. Non ho votato Beppe Grillo, anche se ho molta simpatia per alcune delle battaglie del Movimento 5 Stelle, però non ho votato Grillo. Detto questo, io sono preoccupato all'idea che ci sia una così forte tensione sociale, tensione politica, senza, e non ci sia nessuno al momento che la canalizzi. E infatti poi vediamo che la tensione volano, oppure che vengono eletti persone come l'ottimo Corinti a Messina, che si presenta a piedi nudi nel comune. Ma dai, questa piedi nudi, no, però fammi ripartiamo da qui dopo il traffico. Io l'ho vista la foto, ma perché si è presentato a piedi nudi in comune? Comunque l'hanno messo, l'ho trovato, Angelino Alfano, anche lui tra gli scuoi, Renato Schifani scontati alla Valtour. Vabbè. 24 mattino. Non se ne può più. E Naomi, Letizia e Ruby, deve il mondo girare solo attorno a queste cose? Ciao, a parte che l'elemora è una vecchia checca e una vecchia puttana, io sono una donna che lavora e non è obbligatorio andare a battere sulla salaria o alla corte del re, magari se qualcuno ci pensa. Ma nessuno di voi giornalisti ricorda alla Santanchè che 5-6 anni fa diceva che Berlusconi vedeva le donne solo in orizzontale e adesso ha cambiato idea tutto di colpo? Ma... Ciao Alessandro, sono quella signora vecchia di 88 anni che ti aveva proclamato un nipote un po' virtuale e ti voglio veramente bene. Ma adesso basta con Berlusconi, basta. Non ne possiamo più, è peggio dei virus dell'influenza. Per cortesia. Ciao Alessandro, buona giornata a te e all'Alpino a cui voglio tanto bene perché mi è stato insegnato che sono veramente della gran brava gente. I consiglieri di amministrazione di tutti i consigli di amministrazione italiani non si potrebbero decurtare le loro indennità? Con questo si sistemerebbe l'Italia. Gioco d'azzardo, 90 miliardi di incasso, 7 miliardi incassati dallo Stato. Dov'è la mafia? Eccola qui la nostra segreteria telefonica, il numero è 0246524492. Se volete lasciare il vostro messaggio, vabbè, Alpino sei contento, c'è la nonnina virtuale che vuole bene anche a tutti gli alpini. Siamo con Maurizio Tortorella, vice direttore di Panorama, e Alessandro Giglioli dell'Espresso. Maurizio, tu hai capito perché questo Accorinti che ha vinto, quindi complimenti, No Ponte, tra l'altro ha detto 3 giorni fa dopo le elezioni è l'ultima volta che metto la maglietta No Ponte. Ieri è entrato con la maglietta No Ponte e va bene, ci sta tutto, e a piedi nudi, a piedi scalzi nel comune di Messina. Non ho capito, forse l'avrà motivato questo gesto, cioè, cosa... Ma ho visto un po' di cose. Lui è un personaggio notevole, è straordinario, sì, è uno, non so come farà, cosa farà da amministratore, però da contestatore è sicuramente un personaggione, il fondatore del movimento non violento, ovviamente no contrario anche al ponte sullo Stretto di Messina, negli anni 70 era andato davanti al muro di Berlino per protestare, poi voleva il disarmo unilaterale. Sì, è un'espressione della cosiddetta società civile, diciamo, che se un sereno pacifista. È uno che non aveva il cellulare fino a 3 giorni fa, ha detto no, per carità, il cellulare adesso lo dovrò prendere, uno, e ha vinto il comune. Perché è entrato coi piedi nudi, con tutte le foto a piedi nudi, voglio dire. Ormai la sceneggiata non ce la fai, non se nessuno teme, questo è il problema. Forse lo so, Giglioli, tu l'hai capito, hai seguito ma bene, guarda, il motivo. Io conoscete un sindaco che si chiama Mocus, Antanas Mocus, ex sindaco di Bogotà, personaggio meraviglioso a cui questa Corinti un po' mi ricorda. Beh, è un personaggio fantastico e lui ha utilizzato il suo corpo, compreso quello di vestirsi da puttana un giorno, non come Giuliano Ferrara, ma per andare a delle vicende relative alla sicurezza nella sua città, ha utilizzato il suo corpo come strumento mediatico per far passare alcuni messaggi. Credo che questo sia una caratteristica molto forte della politica. Cioè, ma cosa voleva dimostrare? Dico, sono proprio una persona talmente semplice che entra a piedi nudi. Io ho ancora letto i giornali, quindi non lo so cosa voleva dimostrare. Ha chiesto per esempio di essere chiamato per nome, non vuole essere chiamato sindaco. Ah, dice, vuole essere chiamato per nome, non sindaco. Ma è un po' come il sindaco di Roma Marino che si è presentato in comune con la bicicletta. Sì, però è un po' più vecchio quello che ha fatto Marino. Io Ignazio gli voglio tanto bene, però ha fatto una cosa mediaticamente vecchiotta, cioè in bicicletta girava pure Rutelli. Sì. Prodi l'amava davvero la bicicletta. Sì, no, certo, l'amava anche. Non so se Marino era un ciclista anche prima di fare campagna elettorale, questo regno. Ma io mi ricordo Rutelli in una meravigliosa fotografia in bicicletta, però aveva il cavalletto giù, quindi si capiva che era ciclismo, no? Come Bush quando guardava il cannocchiale. Esatto, mezzo Italia riso. Detto questo, l'uso tappi del corpo in campagna elettorale, ma anche dopo, per far passare dei messaggi politici e per in qualche modo utilizzare come veicolo il proprio corpo delle proprie idee, secondo me è una forza mediatica. No, ma certo, comunque io questa a Corinti lo vorrò invitare, perché ci deve spiegare, adesso sarà sindaco, quindi impegnato, però insomma, se avrà un cellulare soprattutto, perché sennò è anche un po' difficile recuperarlo. Intanto vi ringrazio, vi devo fermare, Alessandro Giglioli e Maurizio Tortorella, se volete leggere Le vacanze a scrocco di Beppe Grillo e altri, oggi è la copertina di Panorama, c'è Beppe Grillo che esce con le pinne dal mare, vacanze a scrocco. Vabbè, andremo a capire se oggi Tortorella dovrà saldare allora Giglioli. Intanto c'è il giornale radio, rientriamo per la rassegna stampa subito dopo. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Siamo qui alle 7:20 minuti, cari ascoltatori, pronti a leggere i giornali per voi. Dunque, vi ricordo subito gli ospiti che avremo più avanti nei nostri approfondimenti di notizie. Sarà con noi la ministra degli esteri, Emma Bonino, alle 8:15 per parlare di attualità internazionale. Poi alle 8:30 vorremo parlare un po' di una cosa, se volete, per qualcuno qualunquista, per altri no, ma insomma una domanda molto semplice: ma questi senatori a vita, ma servono davvero o no? Certo, sono previsti dalla Costituzione, ci sono delle proposte di legge per cancellare questo istituto, modificare la Costituzione e togliere i senatori a vita. Hanno un senso ancora? Proprio due giorni fa ne è scomparso un altro, Emilio Colombo, uno degli ultimi padri costituenti, qualche giorno prima, un po' di tempo fa, Andreotti. E i senatori a vita, parleremo di questo alle 8:30. Ora andiamo a scoprire quello che ci propongono i quotidiani in edicola. È giovedì 27 giugno, i titoli intanto quasi tutti o molti declinati sulle novità sull'IVA e sull'occupazione per i giovani. IVA e occupazione, tutte le novità, questo è il titolo di apertura del Sole 24 Ore. Per il Corriere della Sera, rinvio IVA, sale l'acconto IRPEF. Eh sì, perché è questa la partita di giro. Repubblica, altre tasse per il rinvio dell'IVA, molto esplicito. Libero, il gioco delle tre tasse, slitta l'IVA ma a caro prezzo. E il Messaggero, il rinvio IVA si paga con l'IRPEF. Il Secolo XIX, piano lavoro da 200.000 posti, è l'annuncio del Premier Letta. La Stampa, decreto da 200.000 posti. L'Unità, lavoro, bonus per i giovani. Poi i guai giudiziari di Berlusconi per il Fatto Quotidiano. Chi comprava i senatori? Tutto ok, ha pagato B. Il Giornale, Berlusconi pronto a tutto dopo l'incontro con Napolitano. Mentre Avvenire mette in prima pagina la decisione degli Stati Uniti, la Corte Suprema che modifica la legge, dà un riconoscimento ai matrimoni non solo tra uomo e donna, famiglia, strappo USA, strappo negli Stati Uniti, questo è il titolo di Avvenire. Voglio partire però dall'articolo di cui abbiamo già parlato in qualche modo con il vice direttore di Panorama prima alle 6:30, e che è la copertina di Panorama, ripresa però da vari giornali anche quotidiani in edicola, vale a dire Le vacanze a scrocco di Beppe Grillo. Questo almeno è il titolo esclusivo di Panorama. Vacanze a scrocco, c'è la foto di Beppe Grillo che esce con le pinne, una foto che è anche resa celebre, no? Girava già, esce dall'acqua con in mano un paio di pinne. L'accusa, anche se non è un'accusa perché non c'è niente di penale, ma dopo la vicenda tirata fuori dall'Espresso questa volta, settimana scorsa, di molti VIP che avrebbero fatto vacanze scontate da Valtour, Ora escono nuovi nomi. Il nome per Panorama più clamoroso è proprio quello di Beppe Grillo. L'articolo è poi all'interno a pagina 80. La spiaggia riservata ai clienti è bianca e silenziosa, affacciata sull'area marina protetta di Capocaccia, vicino ad Alghero, dove c'è il villaggio Valtur di Baia di Conte, l'ideale per chi voglia ricaricarsi dopo le fatiche di un anno di lavoro. Qui dal 5 al 24 luglio 2003 c'è una famiglia allargata, 7 persone, 21 giorni di vacanza, se la cavano con appena 7.087,80 euro di conto. Il conto in realtà sarebbe di 19.525 euro, ma grazie a uno sconto di rappresentanza legato alla fama del cliente, sommato a quello da catalogo, la comitiva paga meno della metà. A capo di quei magnifici 7 c'era Beppe Grillo, colui che meno 10 anni dopo avrebbe terremotato la politica col suo Movimento 5 Stelle. Allora, racconta Panorama, era solo un predicatore che si divertiva a bastonare allegramente la casta, i privilegi, i vizi, compreso quello dello scrocco, sport nazionale molto in voga, allora come oggi tra ricchi e potenti, e ora era lì in vacanza per l'appunto. Questo racconta Panorama, che poi mette altri VIP. Piero Marrazzo ha avuto uno sconto nel 2005 del 12%, Ilari Blasi e Francesco Totti, sconti medi alle Maldive e ai Caraibi del 50%, Maurizio Crozza, sconto del 65% per 3 soggiorni nel 2003, uno nel 2004 al Sestriere. E ancora Alberto Tomba, l'ex sciatore, a Sharm el Sheikh, gratis è andato nel 2003 e nel 2009. Rutelli e la Palombelli, una volta anche con i due figli, 54% di sconto. Poi Panorama ricorda già i nomi che erano usciti settimana scorsa di Renato Schifani, Angelino Alfano, Salvatore Cuffaro. Insomma, niente di peso, niente di penale. Tante volte questi sconti si fanno per avere delle persone che sono note e quindi portano prestigio alla struttura. È una sorta di pubblicità fanno alla struttura dove vanno. Comunque la vicenda è ripresa dal giornale L'Italia dei furbetti. Grillo, fustigatore della casta, in vacanza col super sconto. In vacanza, si parla di una vacanza nel 2003, E anche il Fatto Quotidiano, vacanze con Valtur, anche a Beppe Grillo il maxi sconto. L'articolo trovate a pagina 5. E poi ognuno legge e si fa i propri giudizi. La Rai, voglio darvi questa segnalazione. È successo questo: il direttore generale Gubitosi ha fatto l'audizione alla commissione vigilanza Rai e ieri c'è stato una sorta di battibecco che i giornali oggi mettono in evidenza. Il giornale e il Fatto Quotidiano dedicano una pagina a questo. Il Fatto Quotidiano con Carlo Tecce, Minzolini, che ora è senatore ed era è stato direttore della Rai, per la verità è inaspettativa. Minzolini ora attacca gli sprechi Rai e il direttore generale in audizione guadagni oltre 500.000 euro. Cosa è successo? Racconta Tecce. C'è il sospetto concreto che in circolazione ci siano più Augusto Minzolini, mitomani, sosia, cloni. Il giornalista Minzolini, che fu assunto da Viale Mazzini per dirigere il TG1, durante l'inchiesta giudiziaria, assolto in primo grado perché il fatto non costituisce reato, disse che la carta di credito era un sollievo economico, aveva rinunciato a un sacco di collaborazioni, pare. Il senatore Minzolini, ex controllato, ora controllore in commissione vigilanza Rai, sempre dipendente di Viale Mazzini, debutta con un'interrogazione contro il direttore generale Gubitosi. Troppi contratti esterni, troppe spese inutili, i conti non tornano o tornano. E così cosa fa il direttore generale Gubitosi? Va alla vigilanza Rai, parla in commissione, c'è anche presente Minzolini e dice: in Rai ci sono 3 dirigenti che guadagnano oltre 500.000 euro. I giornali hanno scritto che il mio stipendio è di 650.000, ma altri 2 superano quel limite. Il mio predecessore, cioè Lorenza Lei, è un senatore in aspettativa. Non lo nomina, scrive il Fatto, ma si riferisce proprio ad Augusto Minzolini, che guadagna 550.000 euro, come scrive anche il giornale, e che è lì di fronte. E infatti anche il giornale con Paolo Bracalini fa una pagina su questo. Rai, lite sugli stipendi d'oro, ecco i guadagni dei dirigenti, e Gubitosi stuzzica Minzolini in vigilanza su TG1, ascolti e bonus. Poi spunta l'elenco di redditi di giornalisti e manager, come richiesto dal capogruppo del Popolo della Libertà. Ci si pizzica in Rai. e in vigilanza Rai, soprattutto tra Gubitosi e Minzolini. Voglio darvi solo questa chicca, che non è una chicca, è una roba da altro che mani sul volante, sul Corriere della Sera, pagina 13, un piccolo ritaglio di quello che è uno spaccato della giustizia in Italia. Aosta, un processo a rischio prescrizione perché quattro periti non bastano per tradurre dal dialetto. Per carità, ce la staranno mettendo tutta. C'è una intercettazione, racconta Riccardo Bruno, chiave in un processo nel quale si dice questa frase: metti via quelle paillette dal frigo. Solo che gli allevatori che parlano in patois, il dialetto valdostano, che cambia da valle a valle. E allora non si capisce bene il senso di quella frase. Allora il giudice cosa fa? Nomina un perito. Il perito chiede tempo per finire, a maggio chiede 60 giorni di proroga perché non capisce, gli vengono concessi, a ottobre la situazione non migliora l'anno scorso, allora il giudice nomina un secondo perito e fissa altri 50 giorni per ultimare il lavoro, scadono i giorni, ne aggiungono altri 30, non bastano. Lo scorso febbraio arrivano altri due periti in soccorso, poker di traduttori, hanno a disposizione 4 mesi, 120 giorni per portare finalmente in aula le intercettazioni. Ma non ce la fanno. Il destino dei 59 imputati appeso all'esatta interpretazione di quelle frasi in dialetto rischia di andare tutto in vacca, tutto in prescrizione, perché non si capisce. Quattro periti non riescono a capire perché pare che il dialetto patois poi cambi da valle a valle, e trovate quelli della valle degli allevatori. Ci sarà uno zio, un nipote, un cugino, qualcuno che riuscirà a tradurre questa maledetta frase per capire se ci sono dei reati o no. E se no, buttate tutto a mare, abbiamo buttato via dei soldi, andiamo in prescrizione e chi se ne fotte. Andiamo in pubblicità. Ed ecco Alessandro Milan che legge i giornali come nessuno al mondo sa leggerli. Allora, sono le 7:36 minuti, siamo qui a leggere i giornali. Come definire, cari ascoltatori, in termini che non siano epiteti e che non siano qualcosa di scurrile, quello che è successo ieri sulla questione dell'IVA? Tecnicamente, vabbè, il gioco delle tre carte, vedetela come volete. Per scongiurare l'aumento dell'IVA che scattava lunedì, si è deciso di fare che cosa? Mettere di fatto altre tasse, alcune concrete, vere e proprie, altre invece non sono delle vere e proprie tasse, ma l'acconto, che ne so, dell'IRPEF o dell'IRAP o dell'IRES che si dà a fine anno, in alcuni casi sale fino al 110%, cioè, cari ascoltatori, dovrete anticipare già quelli che in teoria avreste dovuto dare l'anno prossimo. Ecco, questi non è che sono proprie tasse, perché le dovete comunque dare questi soldi, però ve li chiedono prima. Comunque, dalle tasse il 78% della copertura, ecco questo titolo già che leggiamo a pagina 2 del Sole 24 Ore fa capire la questione qual è. L'aumento dell'acconto IRPEF strutturale. Gianni Trovati, sale al 100% l'acconto IRPEF, arriva al 101% quello dell'IRES e tocca il record del 110% per due anni l'anticipo delle ritenute sulle interessi di conti correnti e depositi, e può crescere di un punto anche quello dell'IRAP. Arriva la super tassa per le sigarette elettroniche e per il liquido di ricarica, Siete fruitori di questo nuovo aggeggio che peraltro per molti serve a disincentivare il fumo e quindi le malattie correlate, quindi i costi relativi per la sanità pubblica. Beccatevi questa tassa, una tassa che, scrive il Sole 24 Ore, arriva al 58,5% imposta di consumo, che andrà a gravare sul liquido di ricarica e sulle sigarette elettroniche. Eccolo qua, ancora una volta le maggiori entrate fiscali giocano un ruolo da protagonista nella copertura finanziaria, e questo è il dato di fatto. Poi ci sono ovviamente gli altri dettagli nell'articolo di Gianni Trovati. E poi ancora a pagina 3, Marco Mobile, Marco Rogari: lo stop all'IVA pesa sugli acconti, le rate IRPEF, IRES e IRAP più alte per il rinvio di 3 mesi. Infatti molti giornali titolano comprensibilmente così: il Messaggero è il più efficace, forse, il rinvio IVA si paga con l'IRPEF, cioè per togliere una tassa, o meglio per scongiurare l'aumento di una tassa per 3 mesi, peraltro per 3 mesi, mica per sempre. Al 1 ottobre è previsto l'aumento dell'IVA che era previsto a luglio, quindi magari ci beccheremo l'aumento dell'IVA tra 3 mesi. Intanto ci becchiamo altre tasse, questo è una certezza. Nel contempo il Consiglio dei Ministri ha previsto anche però un piano per incentivare l'assunzione di 200.000 giovani. Questo ha dato adito anche a una polemica di stanza. Beppe Grillo attaccato dopo l'annuncio del famoso berlusconiano 1 milione di posti di lavoro. Ecco che ora arriva Letta, 200.000 posti di lavoro. Letta se l'è presa, Grillo gli ha dato del Pinocchio, Letta ha risposto sei tu il Pinocchio, insomma una diatriba di stanza. E il piano lavoro, tutti i dettagli li trovate anche in questo caso del decreto legge sull'occupazione sul Sole 24 Ore. Emilia Patta racconta pagina 5. Enrico Letta ha detto: c'era bisogno di dare un segnale che la nave dei nostri conti pubblici ha al timone persone responsabili e che non ripartano debiti ma si facciano scelte trovando le coperture del bilancio. Sta di fatto che è stato trovato nel pacchetto lavoro di fatto 1,5 miliardi, 1,5 miliardi di euro per combattere la disoccupazione giovanile, favorire l'assunzione di 200.000 giovani italiani in 18 mesi. Certo, anche qui c'è qualcosa che si può dire sul fatto che una delle condizioni per favorire l'incentivazione di assunzioni è questa. La misura si rivolge a giovani tra i 18 e i 29 anni che si trovino in almeno una delle seguenti condizioni: siano disoccupati da più di 6 mesi, e questo è meritorio, cercare un'occupazione per loro, abbiano una o più persone a carico, e anche in questo caso, e però non ho capito questa terza condizione, abbiano solo la terza media. Ma che è un disincentivo o un incentivo al non studio? Cioè, perché bisogna favorire una persona che, certo, magari per motivi, qualche motivo che è imperscrutabile, che magari di difficoltà economica ha dovuto abbandonare gli studi dopo la terza media, ma il messaggio per una norma che vale in maniera generale, secondo me, questo dell'aspetto del avere solo la terza media, è un messaggio totalmente diseducativo da parte di uno Stato, perché non bisognerebbe incentivare una persona che non ha studiato, tutt'altro, bisognerebbe incentivare lo studio e la scuola. Comunque, giovani con famiglia e licenza media, ecco chi è aiutato dal pacchetto lavoro. Pagina 3 della Stampa, Roberto Giovannini, ci sono tutti i dettagli, ma che trovate appunto molto approfonditi sul Sole 24 Ore, tutto quello che è previsto da questo decreto legge. Mi stupisce solo questo terzo aspetto. Va bene che siano disoccupati, va bene che appunto abbiano persone a carico, queste persone vanno, queste categorie aiutate, ma il fatto che abbiano solo la licenza media, come se sia una nota tra virgolette di merito, nel senso da aiutare, non lo so, è una cosa che è un pochino strana. Comunque, per il Manifesto è un decreto piccolo piccolo. Antonio Sciotto a pagina 2, la critica, è un piano da 1,5 miliardi di euro per combattere la disoccupazione giovanile, 200.000 giovani da assumere in 18 mesi, oltre al rinvio di 3 mesi dell'aumento dell'IVA, il costo di 1 miliardo di euro, insomma, questi sono i dettagli di un decreto piccolo piccolo per il Manifesto. Sta di fatto che all'interno di questo si è giocata anche la partita politica. Ieri Renato Brunetta, mentre si stava per approvare queste novità in Consiglio dei Ministri, è stato anche molto critico. Lo avete sentito forse ieri alle 8:15 qui a questi microfoni a dire: ma no, ma decidere l'aumento, il rinvio dell'aumento dell'IVA per 3 mesi è una cosa assolutamente che non va bene, anche solo per sé. Sono scelte, sono risposte non risposte, non concrete da parte del governo. Beh, nel retroscena di Repubblica, Goffredo De Marchis racconta pagina 3: Saccomanni teme i falchi del PDL, si comportano come l'opposizione, e infatti cita Repubblica proprio mentre c'è la riunione del Consiglio dei Ministri, vengono consegnate le dichiarazioni minacciose di Renato Brunetta, che fu uscite sulle agenzie, dette Radio 24, il titolare dell'economia perde la plomb. Ecco qua, il capogruppo del PDL tira fuori il tema delle coperture, classica obiezione di un leader dell'opposizione, qui si lavora bene, ma fuori il PDL si comporta come se non fosse nella maggioranza. Questo avrebbe detto, secondo Repubblica, all'interno della riunione del Consiglio dei Ministri, il ministro all'economia Saccomanni. Poi nell'articolo si dice che in realtà Letta è di buon umore, ieri è arrivato a Bruxelles dopo aver approvato per questo importante Consiglio Europeo di questi due giorni, dopo aver approvato queste norme e insomma la situazione sembra un po' ricomporsi. Certo, c'è da pensare, trovare la soluzione di tagliare la spesa pubblica, uno dice, quello mai, mai. Eppure poi va a pagina 10 del Sole 24 Ore e trova una notizia che a volte ti può riempire di speranza, ti può fare svoltare la giornata in senso positivo. Eccolo qua. Il taglio della spesa pubblica annunciato pare a 13,5 miliardi di euro nel biennio 2015-2016, un taglio che prevede anche 144.000 dipendenti pubblici in meno, annunciato. E uno dice, perché lo trovi a pagina 10 in taglio basso? Perché succede in Gran Bretagna, cari ascoltatori, perché succede in Gran Bretagna, non in Italia. Cameron taglia ancora la spesa pubblica, non è la prima volta. Leonardo Maisano racconta: tagli per il governo che verrà. Londra è tanto previdente che affonda il bisturi anche per nome e per conto dell'esecutivo prossimo, cioè capite, è una decisione presa per il governo che verrà, quindi per il successore di Cameron. Questo è il senso della sesta manovra sulla spesa pubblica, un totale di 11,5 miliardi di sterline. Quindi un controvalore di 13,5 miliardi di euro, 144 mila dipendenti pubblici in meno, questo succede, questo si può fare in Gran Bretagna. Alessandro Milan, il panettiere dell'informazione. Vedete che si può, in Gran Bretagna lo fanno, tagliare la spesa pubblica. Come un'altra soluzione, devo dire, molto all'italiana, all'interno di un pacchetto che è stato approvato ieri, il cosiddetto decreto carceri, è quello che viene rilanciato, è la soluzione che viene rilanciata dal ministro della giustizia Anna Maria Cancellieri. E qual è, cari ascoltatori? L'amnistia. Ieri lo ha ribadito Cancellieri, dando il via libera e spiegando questo decreto carceri che dovrebbe, come racconta il Sole 24 Ore a pagina 19, dovrebbe portare a 6.000 persone in meno nelle carceri nei prossimi anni, poi misure strutturali, se la pena non supera i 2 anni, 4 anni per gli over 70 l'esecuzione è sospesa, dalla libertà si può passare alla misura alternativa. Per carità, nessun provvedimento che preveda la costruzione di nuove carceri, di anno non ci sono i soldi, ma sarebbe anche lavoro, edilizia. E poi questa dell'amnistia, continua a insistere, il ministro Cancellieri si ribadisce e resto convinta che l'amnistia serva, anche se noi faremo di tutto per riconquistare la nostra dignità in Europa. Cancellieri insiste sull'amnistia. Vabbè, la politica invece, anche questa è politica ovviamente, i provvedimenti economici sono politica, ma la politica in senso stretto è tutta ancorata alla questione: sarà Marina Berlusconi la leader dopo Silvio Berlusconi? In realtà ieri ha emesso anche una nota la presidente di Mondadori, figlia di Silvio Berlusconi, a dire non c'è nessun impegno in politica. C'è chi dice di sì, c'è chi dice di no, c'è chi dice che Paolo Del Debbio la stia già svezzando alla politica. Paolo Del Debbio fa un'intervista breve a Repubblica e dice ma che qua io a fare lezioni a Marina Berlusconi, non scherziamo. C'è Berlusconi invece che è andato a trovare Giorgio Napolitano, il capo dello Stato, è un incontro che doveva essere mantenuto riservato, questo almeno raccontano alcuni giornali. Retroscena, Repubblica, Silvio chiede l'aiuto del Quirinale, la neutralità non vale con questi PM, racconta anche il Corriere della Sera che si sarebbe sfogato a lungo sull'accanimento giudiziario, avrebbe però detto comunque l'impegno di mantenere il sostegno al governo Letta c'è. Insomma, la politica attaccata sempre alle solite questioni, anche perché di questioni giudiziarie Berlusconi ora ne deve vedere altre. Oggi parte il procedimento in Cassazione, causa civile, che deve confermare in maniera definitiva, e la conferma ci sarà tra qualche mese, se Berlusconi debba dare 564 milioni di euro a De Benedetti per la vicenda Mondadori. Oggi a Napoli Berlusconi dovrebbe presentarsi all'udienza preliminare nella quale si deve decidere se rinviarlo a giudizio per la presunta compravendita del senatore e di senatore De Gregorio. Insomma, questioni giudiziarie che arrivano altre al pettine e quindi possono creare molte tensioni. Vabbè, diamo uno sguardo all'estero. Ricordo che avremo il ministro degli esteri, Emma Bonino, ospite nostra alle 8:15 per parlare soprattutto di Turchia, Siria, Afghanistan, l'attualità anche molto vicina a noi. Ma la notizia estera più interessante dai giornali è la svolta storica per le nozze gay negli Stati Uniti, dove la Corte Suprema con una sentenza ha sancito di fatto che il matrimonio non è solo quello tra uomo e donna. Per Obama è un grande passo in avanti, ha detto il presidente americano, da oggi ci sentiamo più liberi, mentre Avvenire titola in prima pagina, il titolo di prima pagina, famiglia strappo USA. Nell'articolo di Avvenire all'interno Elena Molinari a pagina 3 racconta: con una controversa decisione che spacca il paese, la Corte Suprema americana ieri ha bocciato la legge americana che definisce il matrimonio come unione di uomo e donna, una sentenza che ora aprirà un contenzioso. Perché ci saranno come conseguenza concreta in migliaia di dichiarazioni di redditi congiunte da parte di coppie omosessuali. I vescovi dicono è un giorno tragico per la nazione. Obama invece è una scelta di estrema libertà, questo ognuno come la pensi, ognuno si può fare il suo giudizio, come sulla questione di una eroina, viene definita da chi l'ha supportata, dallo stesso Obama che l'ha seguita, è una senatrice democratica in Texas che cosa ha fatto, cari ascoltatori? Ieri è stata a fare un discorso durato 13 ore al Senato del Texas, è stato un discorso volutamente di 13 ore, di cosiddetto filibustering, cioè di tattica dilatoria per cercare di far perdere tempo, perché c'era una legge da approvare entro mezzanotte che avrebbe comportato la chiusura di molte cliniche, della maggior parte delle cliniche del Texas dove si può abortire. E allora questa senatrice democratica, per contrastare questa legge voluta dai repubblicani, ha fatto 13 ore di discorso, si chiama Wendy Davis, 13 ore di discorso per affossare i tempi di questa legge. Per la verità lui li ha affossati temporaneamente, ora questa legge sarà ricalendarizzata, ma insomma si è messa le scarpe da ginnastica, perché secondo la legge del Texas doveva stare necessariamente in piedi e non poteva appoggiarsi da nessuna parte, ma bizzarrie, è dovuta stare in piedi e ha parlato per 13 ore con il supporto di gente che la incitava, 11 ore in piedi e 13 di discorso. Così Wendy ha difeso il diritto all'aborto sul Corriere della Sera, ma anche l'Unità racconta Wendy che salvò l'aborto in Texas con Marina Mastroluca, racconta pagina 9. Insomma, questa senatrice che ha fatto una performance fisica, Super Wendy per il Quotidiano Nazionale, parla 13 ore e così non passa la legge anti-aborto. Vabbè, siamo alla chiusura, sapete che è il momento divertente in cui voglio assegnare anche oggi il premio La Carta Costa per l'articolo più inutile scovato sui giornali. Oggi non è da scovare perché è visibile, ben visibile, un'intera pagina del Corriere della Sera firma Elvira Serra, pagina 25, la donna che va a conoscere gli amici virtuali di Facebook. In un'intera pagina il Corriere della Sera racconta la storia della fotografa americana Tania Hollander, che un giorno ha detto: ma perché io devo avere gli amici su Facebook, gente che non ho mai visto? Voglio vederla in faccia. E quindi con un conto in banca da $50 a 41 anni ha iniziato a girare il mondo chiedendo, pensate anche, finanziatori per andare all'estero e vedere in carne e ossa, in faccia, queste persone che sono amiche su Facebook. E il Corriere della Sera si chiede in un'intera pagina, resta da chiedersi perché nell'era della comunicazione liquida una donna senta il bisogno di riempire la valigia, attraversare il mondo per pranzare e cenare con dei quasi sconosciuti. Ma viene da chiedere anche perché scriverne una pagina sul Corriere della Sera. Come sempre l'appello è quello: la carta costa, cari colleghi, e quindi il premio va oggi al Corriere, a Elvira Serra. 24 mattino. Siamo qui alle 8:16 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora oggi vogliamo parlare e partire dall'attualità internazionale. Per questo è con noi, la ringrazio, la ministro degli esteri Emma Bonino. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno, buongiorno a voi tutti. Grazie di aver accettato questo invito. Senta, io partirei dalla Siria, perché lei è reduce proprio dalla Giordania, dove ha visitato sì. Anche i campi profughi, che sono un'emergenza la Siria. Sa che molta gente di strada proprio si chiede: ma come mai noi siamo intervenuti in Libia, noi l'Occidente, come mai siamo intervenuti in Iraq e in Siria con 100.000 morti non si interviene come Occidente in maniera militare massiccia? Perché? Ma intanto perché sono scenari molto, molto diversi da molti punti di vista, e secondariamente perché credo che alcune lezioni del passato forse alcune potenze le hanno imparate e hanno tratto delle lezioni, perché a volte intervenire in modo confuso e anche molto precipitato non risolve le situazioni, anzi a volte le aggrava. Penso che fornire ulteriori armi in una regione già piena di armi e in una zona che è ormai un grande conflitto tra sciiti e sunniti, con addentellati vari e soprattutto con implicazioni regionali importanti, dalla Russia al Qatar, all'Iran, all'Arabia Saudita, insomma una vera polveriera che non è il caso, a mio avviso, di fare ulteriormente esplodere. E per quanto sia inaccettabile ovviamente il regime torturatore di Assad, il problema è capire anche che succede dopo, in modo da non avere una situazione, diciamo, di uno Stato senza una gestione, anzi con il pericolo che si spezzetti in tre Stati diversi. E da questo punto di vista tutte le pressioni che stanno facendo e stiamo facendo sull'opposizione siriana, che sia più strutturata, più inclusiva. L'opposizione siriana finora è stata, comprensibilmente, ma insomma molto frammentata, molto sì. Fragile, ha cambiato leader e presidenti ogni 3 mesi, 6 mesi, insomma è una situazione che capisco non è soddisfacente, anzi è drammatica per tutti, ma evitare di fare peggio a volte capisco che non sia entusiasmante, ma a volte un può po' servire. Di prudenza aiuta. Senta, lei ha definito regime torturatore quello di Assad, la posizione dell'Italia è sperare che in qualche modo cada questo regime, però questo regime tiene duro. Innanzitutto perché ha alleati potenti più vicini, da Hezbollah ad altri un po' più lontani, ed è proprio per questo che io non credo ad una soluzione militare, anzi mi preoccupa molto che ci siano ormai infiltrazioni di gruppi molto ben definiti che sono di stampo jihadista, per non dire veri e propri Al-Qaeda, che lottano contro il regime, ma ripeto, per una guerra interna tra sciiti, sunniti, alaviti, cioè stiamo assistendo a un grandissimo scontro di posizionamento geopolitico dell'intero mondo musulmano in quella regione, e che poi sono gli stessi gruppi che tocca poi combattere successivamente a sud della Libia, piuttosto che in Mali, piuttosto che in Somalia. Quindi dobbiamo renderci conto che l'estensione di tutto questo conflitto è gigantesco. Questo sì. Senta, Ministro, so che in questi casi la regola d'oro è il silenzio, ma ovviamente sulla vicenda di Domenico Quirico, inviato della stampa, scomparso ormai da molto tempo, che cosa si può dire? Intanto sappiamo e possiamo confermare che ci sono notizie che sia ancora vivo? Sì, questo lo possiamo confermare, e come abbiamo puntualmente, diciamo, informato la famiglia e l'opinione pubblica. Quello che devo dire è che continuano tutte le ricerche attraverso canali, quelli diplomatici, quelli non, quelli altri, quelli dei servizi, quelli dei contatti dei vari gruppi, perché ripeto, quella è una zona di guerra dove non è che c'è un esercito, diciamo, strutturato normale con un altro esercito. È una situazione molto più conflittuale di gruppi contro gruppi, di gruppi politicamente schierati, anzi altri gruppi che sono invece di orientamento più normalmente, come dire, criminale, di criminalità normale organizzata. Le ricerche stanno continuando, i contatti stanno continuando, e per ora le buone notizie che abbiamo è, almeno fino a qualche giorno fa di sicuro, è che Quirico era in vita. E questa, in vita. Questa è almeno diciamo lo spiraglio positivo. Senta, certamente. Spostandoci sul fronte Turchia, un altro fronte molto caldo, le faccio questa domanda diretta. L'Italia è per un'apertura di negoziati perché la Turchia, perché si inizi il processo perché la Turchia entri nell'Unione Europea, anche se è stato rinviato, diciamo, questa discussione a ottobre. Le chiedo, è compatibile questa Turchia che abbiamo visto con queste azioni molto forti della polizia con l'Unione Europea? Beh, credo che innanzitutto le responsabilità sono anche nostre, perché l'avvio del processo negoziale risale al 2005, e dal 2005 chi ha opposto più freni al negoziato è stato esattamente alcuni membri dell'Unione Europea. Nel frattempo la Turchia ha avuto uno straordinario risveglio e boom economico, all'inizio nei primi anni un straordinario processo di implementazione democratica che si è rallentato, ma ripeto, a mio avviso la reazione delle forze di polizia sproporzionata non è mai accettabile, ma piazza Taksim non è piazza Tahrir. Assomiglia molto di più in qualche modo alle manifestazioni che abbiamo visto anche in queste giorni in Brasile, piuttosto che quelle che abbiamo visto a casa nostra, a Genova, piuttosto che in altre capitali, in cui a volte anche noi e anche i nostri paesi hanno avuto reazioni spropositate, cioè, e inaccettabili. Spieghiamola agli ascoltatori: piazza Tahrir in Egitto, cioè la primavera araba cosiddetta, mentre lei dice piazza Taksim in Turchia è un po' come le proteste più indignados, più gli indignati, più le proteste in Brasile di questi giorni, tanto per capirci. Sì. E cioè no, proteste che mettono insieme varie anime, quelle più laiche, quelle più ecologiste, quelle diciamo più metropolitane rispetto a quelle dell'interno della Turchia, ma indubbiamente la reazione, diciamo, delle forze di polizia e del governo sono state violente e inaccettabili da questo punto di vista. Questo però non frena questo processo, secondo lei, di adesione all'Unione Europea? Secondo me lo dovrebbe accelerare, e ripeto, è anche colpa nostra che dal 2005 al 2013 abbiamo noi stessi europei, o meglio alcuni paesi europei, tradito un po' tutti gli impegni che avevamo preso. Secondo me è l'ora non solo di non fare il muro contro muro, ed è l'ora di ovviamente richiamare tutto all'ordine, compresi noi stessi, ma è l'ora semmai di accelerare questo processo negoziale, perché appunto Turchia, poi Siria, insomma, se guardiamo il mappamondo in quella zona non è difficile capire qual è l'interesse del mondo democratico rispetto alla Turchia. Ministro Bonino, le faccio una domanda invece cambiando sul fronte, sulla vicenda pratica dei Marò, dei due Marò. Sì. da troppo tempo pensano molti italiani in India. Perché non si risolve quella situazione? Che cosa si può sperare davvero per riportarli in Italia, anche eventualmente per processarli? Ricordiamo che sono indagati per omicidio. Beh, questo se lo volevamo fare lo potevamo fare prima. Diciamo. Oddio, c'erano già, poi li abbiamo riconsegnati, ma questo è stato forse un pasticcio passato. Preferisco non guardare indietro, diciamo, ma appunto occuparmi adesso di un dossier ereditato che credo con l'aiuto dell'intero governo sia stato messo sul canale giusto. È in corso, si sta finendo in questi giorni l'indagine, il processo è stato spostato dal Kerala a New Delhi, si aprirà questa corte speciale. Io credo, spero, sono anzi convinta che abbiamo trovato la strada giusta per una soluzione giusta e rapida, la stiamo seguendo giorno per giorno con gli avvocati italiani del governo, in contatto con gli avvocati di parte indiana sempre dei... Cioè, dei, mi scusi, dei cosa Marocchi. Vuol dire rapida e giusta, cosa vuol dire? Potrebbero tornare in Italia e essere processati qui? No, credo che il processo ormai viene fatto in India, da questa corte speciale che è stata creata, le indagini ulteriori dovrebbero finire tra poco e luglio dovrebbe iniziare appunto questo processo con i Marò, che sono difesi da un collegio di avvocati italiani dello Stato e avvocati ovviamente indiani. E io sono convinta che, fermo restando l'apertura ovviamente del conflitto giurisdizionale a livello internazionale per la questione delle acque internazionali e dove erano e come non erano, e del conflitto che c'è dell'interpretazione tra noi e gli indiani della giurisprudenza internazionale, ma questa è una procedura che può durare anni e anni. Nel frattempo si è trovato questa via giudiziaria, diciamo, alla soluzione di questo problema, che giustamente, come lei dice, abbiamo gestito anche in modo abbastanza un po' pasticciato, diciamo così, da parte nostra e devo dire anche da parte indiana. Credo si sia trovato un accordo perché le procedure adesso siano rapide e finiscano in una situazione accettabile e giusta per entrambe ma le parti. Un'eventuale condanna poi dovrebbe essere scontata in India, in Italia, cioè su questo? Noi abbiamo firmato un accordo di possibilità di sconto di pena in Italia, accordo che abbiamo firmato con l'India, come abbiamo con parecchi altri paesi e che prima non avevamo. Sì. Questo accordo è stato firmato più recentemente, entrato in vigore proprio recentissimamente, e prima questo accordo non ce l'avevamo. Ministro, mi faccia fare un'ultima domanda sulla tenuta politica proprio italiana, perché ogni giorno, non passa giorno senza che non si legga sui giornali, questo governo resiste. Secondo lei è un governo, quello di cui fa parte anche lei, fortemente in sella oppure traballante? Fortunatamente è un governo che ha avuto, nasce nel modo che tutti sappiamo, ha avuto un mandato parlamentare su due temi sostanziali, che sono appunto quella della modernizzazione istituzionale e quella dell'economia. Il resto delle urgenze politiche del paese, per esempio i miei amici radicali li stanno affrontando con una campagna referendaria insieme a molti altri gruppi, ma non sono, diciamo, le priorità del governo. Io credo che la cosa migliore che possiamo fare per il nostro paese è quello di occuparci esattamente del nostro compito, ovvero quello di governare il paese a partire da questi due grandi temi. Ma le fibrillazioni le sente? Le restanti fibrillazioni le vedo e le leggo come tutti voi, ma penso che noi dobbiamo, per rispetto al Parlamento e al Paese, tenere molto saldo rispetto alle priorità che ci sono state date. Quindi le vede, le legge, ma non si riversano sul Parlamento, cioè sul governo stesso, diciamo. Dobbiamo fare assolutamente in modo che non si riversino sul governo. Va bene, io intanto la ringrazio per essere stata con noi. Grazie. La ministra degli Esteri Emma Bonino, che ci ha parlato appunto dell'attualità internazionale. Noi ci fermiamo per la pubblicità e il meteo. Poi voglio affrontare con due ospiti la questione dei senatori a vita. È tornata un po' alla ribalta, d'altronde è scomparso anche Emilio Colombo di recente, dopo Giulio Andreotti, poi quest'anno anche Rita Levi Montalcini. Sono rimasti due senatori a vita e si rilancia il dibattito: ma servono, non servono? E a dire la verità, qualcuno ha detto: ora ci sono delle caselle vuote finché non si cambia la Costituzione da poter riempire. E se Berlusconi fosse senatore a vita, se Prodi fosse senatore a vita, tornano a rispuntare i soliti nomi. 24 mattino. Allora, eccoci, le 8:34 minuti. Vogliamo parlare fino alla chiusura della trasmissione di questa vicenda dei senatori a vita. Torna, ritorna. So che molti italiani dicono, ma in maniera molto, molto dura, e così lo dico subito: ci sono due ospiti parlamentari. Ma come? Non servono manco i senatori, figuriamoci i senatori a vita. Questo giusto per mettere in un buon clima di serenità. Intanto il senatore Lucio Malan, che saluto, buongiorno, ben ritrovato, senatore. Buongiorno. Uno dei questori del Senato del Popolo della Libertà, ogni tanto la chiamiamo anche per queste vicende di costi che bisogna dare. Saluto anche l'onorevole Gianluca Pini, che invece siede alla Camera, è vicepresidente, credo, del gruppo, della Lega. Buongiorno, onorevole Pini. Buongiorno, buongiorno. Allora, i senatori a vita, la gente si chiede, dopo che è scomparso l'ultimo Emilio Colombo, ma servono oppure no? Ne sono rimasti due, Mario Monti e Carlo Azeglio Ciampi. E potrebbero essere anche rimpiazzati da altri. A questo punto ci sono delle caselle vuote e torna il toto nomine: Berlusconi, Prodi, altre persone non politiche. Gianluca Pini della Lega, e così come anche il Movimento 5 Stelle, hanno proposto una legge per modificare la Costituzione e toglierli questi senatori a vita una volta per tutte. Intanto, senatore Malan, l'ultima volta ci eravamo sentito per i conti per gli eredi di Andreotti, che sono stati liquidati, tutto a posto? Finita quella vicenda? Mi risulta di sì. Comunque le procedure dal punto di vista dell'ufficio di presidenza del collegio dei questori sono state fatte, se non sono ancora stati pagati questione di giorni, ma proprio solo di carte. C'è un conto finale, un conto che hai in mano proprio definitivo? No, più o meno. No, per la verità non ce l'ho. C'era vociferato di un milione di euro, non so. No, quello è molto di meno, perché eravamo sui 500.000. Sui 500.000. E come dicevo, Andreotti, credo che chiunque dopo 67 anni di lavoro in una qualche azienda si prenderebbe una liquidazione. Un TFR così. Adesso... Abbiamo sentito di liquidazioni molto più alte, sì, in giro di banchieri che peraltro non sempre hanno avuto grandi meriti. Adesso c'è la vicenda Colombo, però lui è stato meno al lui, come Colombo sì, sembra che debba, qualcuno pensa, ma siccome lui era già nell'assemblea costituente dal 46, ma in realtà siccome lui cessò dal mandato nel 92, non si ricandidò alle elezioni, sì, per cui lui nel 92 prese fine rapporto, per quell'epoca ha preso anche una bella somma all'epoca, anche perché all'epoca eravamo pagati di più, erano, sì, pagati di più i parlamentari. Ah, quindi adesso ha riazzerato tutto e c'è solo un... Esatto, è ripartito dal 2002-2003, quando è stato nominato senatore a vita, per cui sono solo 10 anni. Poca cosa. Senta, questi senatori a vita servono o no, Malan? Io credo che i costituenti che nel 46 e nel 47 pensarono a questo, non dimentichiamo che fino a quel momento lì i senatori erano tutti nominati dal re, anche prima del fascismo, la Camera era elettiva, il Senato era nominato dal re, e pensarono di mantenere una quota per personaggi di altissimo livello. Tra i senatori nominati dal re ci furono personaggi come Garibaldi, come Alessandro Manzoni, Giuseppe Verdi. Direi che di personaggi a quell'altezza lì non ne sono stati fatti. Da allora, dice, direi proprio po' calato il livello. L'idea poteva anche essere buona, il risultato non è stato davvero migliore. Io ho presentato delle proposte di riforma costituzionali complessive, nelle quali i senatori a vita venivano ridotti a 3 di numero, perché se abbiamo 3 grandi uomini, se li scegliamo bene va bene, sì, e senza diritto di voto, perché dovrebbero essere incluiti per la loro saggezza più che per il loro voto. Sì, poi bisogna sempre lì, bisogna poi sceglierli bene. Allora, Garibaldi, Manzoni, quelli che ha citato, va bene, non però li abbiamo disponibili. No, esatto. No. O forse sono disponibili, però c'è sempre questa usanza di poi votare, di scegliere dei politici, e poi i politici si sa che creano dei mal di pancia a qualcuno. Comunque, l'onorevole Pini. Anche non politici. Anche non politici, sì, però. A livello eccezionale, diciamo la verità. A chi pensa, per esempio? Ma adesso non è bello perché sono tutti scomparsi. Diciamo che alcuni non erano. Diciamo che non erano all'altezza dei nomi. Non erano all'altezza. Onorevole Pini, perché voi della Lega, non è la prima volta che proponete questa cosa, non mi dica che è solo una questione di risparmio, cioè c'è un risparmio, però il risparmio nei conti dello Stato è minimo per qualche senatore a vita. No, non è un fatto di risparmio, è un fatto di anacronismo di queste figure rispetto a quello che è la visione del fare politica di oggi, e soprattutto è illogico anche rispetto a una visione di riforme complessive che dovrebbe vedere il Senato essere solo rappresentativo dei territori, quindi delle regioni. Quindi per logica noi diciamo non solo va riformato sulla base di quella che era già stata una riforma che, se fosse stata approvata in via definitiva con referendum nel 2006, tante cose che si sentono dire adesso, che si sentono chiedere adesso, sarebbero già state fatte, tanti problemi anche di stabilità governativa sarebbero risolti, però proprio, ripeto, rispetto a un istituto che magari 60-70 anni fa ci poteva anche stare, perché venivano nominate persone che davano adesso no di, potevano essere una sorta di simboli o di punti di riferimento più sul piano culturale che sul piano politico, secondo me, adesso assolutamente. Se voglio dire. Zero. No, ma devo dire che è un po' l'emblema, onorevole Pini, di un'Italia in cui non si riesce a fare nulla. Io non so se sia giusto o meno, però io ho davanti anche la vostra proposta di legge costituzionale, e le proposte di legge, per chi non le ha lette alla Camera, sono straordinarie, no? Perché iniziano sempre così, con questo "onorevoli colleghi" col punto esclamativo. Non ho mai capito tutti così. No, non l'ho mai capito neanch'io, però se non lo scriviamo non ce le aspettano. Così, onorevoli colleghi col punto esclamativo. E ti dicono no, serve la formula. Vabbè, poi c'è tutta la spiegazione e sentite bene cos'è la proposta di legge costituzionale, la lunghezza della proposta di legge. In genere sono molto lunghe, questa qua, la proposta di legge è così. Il secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione è abrogato, punto. Non si riesce a approvare neanche questo, non si riesce ad approvare nulla, neanche una riga. Le leggi sono complesse, non sono comprensibili, più comprensibili. Più comprensibile di questa sì, eppure non si riesce a fare. Voi lo proponete ogni volta, dice che stavolta sì? C'è una regola che anche di buon senso all'interno della Camera, immagino che ci sia anche al Senato, che per le minoranze è riservato una quota nella calendarizzazione dei lavori di progetti di legge appunto appartenenti alle minoranze che devono essere messi in calendario e devono essere discussi. Chiaramente adesso vi sono altre urgenze, vi sono altre necessità, addirittura secondo me Camera e Senato lavoreranno tutto agosto perché ad oggi ci troviamo con 7 decreti da convertire da parte di questo governo sì. Che non è la proposta di legge che certo non avrà il corridoio proprio. Dovesse essere ancora in piedi questa legislatura e ne dubito. Dopo l'estate potremmo chiederne la calendarizzazione. A lei è uno di quelli che si va a votare a ottobre, secondo lei? Ma guardi, la situazione non è sicuramente vabbè, ma questa per il governo. È un'opinione che hanno anche in molti. È una visione che abbiamo dall'interno. Questo senza dubbio. Senatore Malan, visto che lei è del Popolo della Libertà, Berlusconi senatore a vita, come lo vedrebbe? È una di quelle cose proprio per pacificare, eh? Sarebbe, se esistono i senatori a vita, credo che sarebbe il personaggio che più lo merita attualmente, perché meriti sociali ne ha avuti sul serio, ha avuto anche i meriti culturali che vengono previsti, perché al di là di tutto la televisione è cultura si era detto uno che sarebbe stato molto giusto fare senatore a vita, era Mike Bongiorno, se n'era parlato molto, sì. Naturalmente però è una prerogativa del capo dello Stato, perché Mike Bongiorno con le sue trasmissioni, la televisione ha unificato linguisticamente l'Italia. Sì. Cioè, però mi scusi, molti ancora parlano dialetto, sì. Però sanno parlare italiano. Grazie a Mike Bongiorno. Correttamente, grazie alla televisione. Però senatore, non essendoci più Mike Bongiorno è sicuramente simpatico. Senatore Malan, mi scusi, meriti sociali, culturali, ma voglio dire, ma la condanna non è definitiva, ma le condanne, i problemi giudiziari, si dovrà discutere se sia ineleggibile, e lei dice è la persona che più lo meriterebbe in questo momento, Berlusconi. A maggior ragione perché quando se fossero condanne dovute a reati, ma vi sono condanne dovute per ragioni politiche, è chiaro che questo metterebbe un po' nell'imbarazzo il capo dello Stato, dovesse farlo, e non penso che voglia farlo. Un pochino, sì. Ma per come sono state date, la renderebbero ancora più meritevole. Mm. Lo chiedo anche a lei, Pini, cosa ne pensa? Per Malan è proprio di Berlusconi. Ma guardi, io penso che se il presidente Napolitano dovesse in qualche modo procedere alla nomina di nuovi senatori, e se ne parla, perché comunque è arcinota la posizione del presidente sul fatto dei senatori a vita, che lui li ritiene comunque un istituto ancora valido, non penso che il presidente Napolitano possa ricorrere a nomine politiche, ma prevalentemente dovesse farlo, secondo me ricorrerebbe a nomine di figure che hanno dato prestigio al nome dell'Italia. Tipo i nomi che girano sono Margherita Hack, Ennio Morricone, Riccardo Muti, il maestro Muti. Muti è il nome che ricorre di più. Sì. E però ci sono anche Prodi, Berlusconi. Anche io non penso che ci possono essere nomi politici all'interno della lista che gira al Quirinale, perlomeno questa è la percezione che si ha negli ambienti politici, ecco, negli ambienti della Camera del Senato. Sì, devo dire, ci chiedono, perdono l'ignoranza, ma quanto ci costano i senatori a vita? Spero solo una carica di prestigio morale e basta. No, come? È una carica, è un senatore a vita, costa un senato, prende lo stipendio da senatore con tutto quello che adesso poi il questore Malan ce lo dirà subito dopo il traffico. Malan, guardi che arrivano tanti messaggi a dire si vergogni, ma come? Berlusconi, la persona che lo merita di più, risponderà tra poco dopo il traffico. Eccoci qui, senatore a vita, vabbè, poi c'è chi ci manda le proposte, Umberto Eco, Vasco Rossi anche ci lanciano, siamo proprio meriti, non so, Canori forse, Vasco Rossi. Senatore Malan, questa la voglio approfondire, io va bene, le condanne sono politiche, le dice, molti della sua parte politica pensano così, però sono condanne per reati, cioè cosa dobbiamo considerare, i magistrati delle condanne, il processo Mediaset o questa Ruby, tutti dei politicanti che quindi hanno dato delle sentenze, magari sì, si potrebbero fare come ha fatto Ingroia o come hanno fatto tanti altri magistrati, per dire a Ingroia non è andata bene, ma ho capito, ma se uno condanna Berlusconi è un politico. Il senatore Piero Grasso è andato parecchio bene entrando in politica, è diventato presidente. Cioè, tutti quelli che hanno condannato, tutti quelli che condannano Berlusconi, è capitato a vari collegi, sono tutti politici, fanno politica. Perché partecipano a un meccanismo per cui una persona, perché che è la persecuzione giudiziaria. L'azione giudiziaria è quando c'è un reato e si va a cercare il colpevole. Sì. La persecuzione giudiziaria è quando c'è una persona che si vuole colpire e si va a cercare in qualunque modo, come colpevole, per esempio mettendo sotto controllo tutti i telefoni della zona di Arcore, finché si trova qualcosa. Però, se non si trova qualcosa, lo si fabbrica. E se non lo si riesce neppure a fabbricare, come è stato il caso Ruby, si dice che vabbè, anche se tutti negano, però mentono. E chi ha testimoniato, i 32 persone che hanno testimoniato, diciamo così, in favore di Berlusconi, rischiano un processo, saranno tutti processati per falsa testimonianza. Sì, però c'è anche il processo, non so, a Mediaset sono di bilancio, sono altre questioni, evasione fiscale, cioè ci sono anche altre vicende, non solo quella. Certo. Guardi, mi ha colpito questi giorni sentire la purtroppo ex ministro Josefa Idem, che dico purtroppo è stata costretta a dimettersi. Io sono del parere che Josefa Idem, come chiunque altro, abbia diritto a difendersi. Lei ha detto che aveva fatto tutte le cose in regola, poi ha detto che comunque aveva affidato tutto ai suoi commercialisti, per cui semmai sono loro che hanno fatto qualcosa che non va. E mi sembra anche questo verosimile, però se il commercialista ce l'ha la signora Josefa Idem, mi sa che Berlusconi, che ha parecchio più da amministrare, ne avrà 50, lui fa le cose in grande, 50, ne avrà 50, 60, commercialisti 70. E così via. Però per 3 milioni presuntamente evasi, anche lì non ci sono le prove, per 3 milioni è stato condannato a 4 anni di reclusione. Poi sentiamo di celebrità dello sport, per esempio, che per decine di milioni di evasione viene semplicemente richiesto di pagarli, e di solito con uno sconto, perché insomma fanno una sorta di concordato fiscale, eccetera. Invece Berlusconi per 3 milioni 4 anni. Vabbè, comunque insomma, questa è la sua posizione molto chiara, dice Berlusconi è proprio la persona che meriterebbe di più, avrebbe più meriti in questo momento. Fatemi sentire qualche ascoltatore. Carla Maria dalla provincia di Milano, buongiorno. Senta, io volevo fare una proposta, sì. A parte il fatto che sono arrabbiatissima per tutto quello che si sente, io sono di sinistra, però considero che la Josefa Idem ha fatto dei grossi errori, e siccome lei voleva presentarsi in politica doveva essere la prima ad essere specchiata, quindi tutti quelli di sinistra o di destra che evadono, che qui, che là, devono pagare. E poi per riguardo ai senatori a vita, tutte queste cose, volete farli senatori a vita perché che sia un'onorificenza, non una fonte di reddito, sì. Perché io ho lavorato 40 anni e qualcosa ho contribuito anch'io a fare per il mio paese, ho sempre fatto l'operaia, ho fatto la sguattera per arrivare alla pensione e oggi mi fanno sentire una mantenuta perché prendo 1000 euro al mese. E quindi dice, se ci devono essere, siano solo cariche onorifiche, punto, senza un euro. Un'altra cosa che voglio dire, se uno fa il politico e lo fa come si deve, è giusto pagarlo bene, è giustissimo, non vedo perché il politico possa dare la, il suo vitalizio anche alla compagna o al compagno, quando per le coppie di fatto in Italia non si è fatto niente. Io sono sposata da 42 anni, non è che voglio difendere le coppie di fatto, però non capisco perché la legge per qualcuno è giusta e per qualcuno è più giusta. Basta, non ne possiamo più. La vede con molto... tutto il rispetto per l'onorevole Colombo che è morto, io me lo ricordo quando hai letto i nomi delle, dei candidati al Senato o alla Camera, non era neanche in grado di leggere. Ma perché dobbiamo tenere lì uno di 92 anni e lasciare a casa i giovani? Carla Maria, però basta. Era senatore a vita, che dobbiamo fare? Ed era il senatore più anziano, quindi colui che per le norme doveva presiedere la prima seduta del Senato. Comunque, Carla Maria, grazie per questo suo intervento. Renato da Milano. Renato, buongiorno. Buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori. Dica. E ai suoi ospiti. Dunque, io sono favorevole al ruolo del senatore a vita perché il sistema attualmente democratico è basato sul consenso. Quindi anche voi, in una frase che mandate spesso, vi diremo tutto quello che vi vorrete sentir dire, e quindi è un sistema viziato appunto dal consenso fino all'eccesso. Ci vuole qualcuno che non risponde a questo meccanismo, che ti dica in faccia le cose come vanno. E questo quello è il ruolo che vedo io. Chiaro che ho scelto con criteri di alta moralità, di alto spessore, ma deve saper dire come stanno, cioè darti dello stupido. Lei è a favore del senatore a vita, è una carica. Onorevole Pini, devo concludere, è più vicino all'ascoltatrice Carla Maria che dice questo sfogo, basta, dice, anch'io ho contribuito per il mio paese. L'abbiamo messo nero su bianco, quindi... Senatore a vita, io non sono d'accordo con l'ultimo ascoltatore, perché in realtà il momento in cui, e questo lo dice la storia, il momento in cui vengono nominati non è che poi svolgono questo ruolo di faro della libertà dell'espressione di pensiero. Abbiamo visto che sarebbero sorti con questo scopo, però spesso e volentieri vengono utilizzati come stampelle di maggioranze traballanti, e non è che portano queste grandi dibattiti di elevata caratura all'interno del Senato. Non se ne è mai visto, ecco. Quindi via. Se non li si vuole abolire perché lo si ritiene un istituto, come diceva l'ultimo ascoltatore, così di contributo di alta caratura al dibattito, che sia solo ed esclusivamente una carica onorifica, e che non possano partecipare in qualche modo al voto, quindi carica onorifica e non votino. Ma sì, è come tante cose in Italia, magari sono nate con lo spirito giusto, ma poi quando si capisce che sono cambiate le cose non si riesce a cancellare, a cambiare nulla. Vi ringrazio, onorevole Pini e senatore Malan, l'appuntamento è rinnovato a domattina alle 6:30.